Madame e Monsieur, signore e signori, vi presento l'artista Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Le Nouvelle Martel. È bello. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Aspetta un cattivetto. Che dici? Potete dire quello che volete a chi volete. Chi volete. Chi volete. Attraverso questo cammino. Questo cammino. Questo cammino. Potete lanciare il vostro pensierino. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Sono Olta. Volevo salutare mio marito Luca e mio figlio Roberto. Vi voglio un mondo di bene. Siete la mia vita. Sono Marco da KR. Tanta solidarietà alle famiglie che ieri a Roma hanno perso i loro cari nell'incidente con la metro. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi, sto facendo l'amore a tempo della tua musica. Roberto e Rossella. Roberto e Rossella. Roma. Ma anche il bambino piccolo è un figo.

musica la della musica la musica la della musica la musica la della musica la musica la della musica la festa la musica. Se questa musica vuoi ascoltare sì dai dai dai vuoi ascoltare su M2O ti devi sintonizzare frequenza benevolenza. Baby di bollate. È l'unica donna che mi ha fatto soffrire. Non è che puoi mandarla a fanculo. Enigma. Enigma. La cosa. Enigma. In diretta nazionale. Tony 82. Enigma. Enigma, da da da, diggity da, da da, diggity da. Enigma, da da da, diggity da, da da, diggity da. Enigma, da da da, diggity da, da da, diggity da. Enigma, da da da, diggity da, da da, diggity da. Enigma, da da da, diggity da. Il cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello. A. Salvo da Militello. Lori 92. Andre da Torino. Sono Nicola da Palermo. Tra 9 mesi diventerò papà. Rosy, ti amo. Il cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Stefano dalla Dispoli. Dwell in the shelter of the Lord. You abide in the shadow for life. Say to the Lord, my refuge, my rock, in whom I trust. And he will raise you up. Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Io gioco con la musica. Mi diverto con la musica. cammino di Gigi D'Agostino. Dalle ieri polo da solo con la click, faccio singolare hip un paio anni Marco Chip, Johnny Jackson da Londra della jam, e con i ragazzoni da Rema e Quinta Dan. A colpi di macchietta si esce dalla giungla, a colpi di macchietta si esce dalla giungla, a colpi di macchietta si esce dalla giungla, a colpi di macchietta si esce dalla giungla. A colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta si esce dalla giungla, a colpi di macchetta. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. I Boy di Benevento mandano un saluto a Gigi D'Agostino, Giangi e Carmine. Già, ieri era il mio compleanno, 36 anni vissuti pericolosamente. Aiuto. My name is Sergio. Cosa vuol dire in italiano? Fammi un saluto su un pezzo che vuoi tu, l'importante è che sia per questa sera. Ciao, Re. Ma di chi? Gigi. M2O, musica allo stato puro. Negre, la sapere. Sicile e femmine sono come l'Ubar. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Un saluto da Ludov 46 a Cristi 88. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Volete scrivermi 333 64 67 662. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo e io continuerò a fare il possibile per mandare in onda tutti i vostri messaggi, i vostri commenti, i vostri pensieri. Un saluto a Mister Everald. Sì. Leggi bene, sennò ti estraggo le ginocchia o la pota. Un saluto a Mister Everard. Ragazze, se non sai leggere stai a casa. La rifaccio, eh. Un saluto a Mister Everaldo DJ dalla compagnia di Borgo Ricco, Padova. Well. Gigi D'Agostino, anche a Frassinetto impazziscono per te. È giusto. Metti ginnastica mentale. Sì. Davide 96. Potresti farmi fare un po' di ginnastica mentale, perché tra un po' devo studiare e non sono molto lucido. Non va bene così. Grazie. Adesso infatti lo suono. Andrea da Mantova. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Gigi, voglio dedicare Reparto pelle d'oca al mio ragazzo Patrizio. Mi sono venuti i brividi. Elena, la sua gattina. Non è che siamo qui a snocciolare, eh? Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Oggi già. Pasquale De Marco. Sì. Ti voglio. Rocca Imperiale. Ho messo anche l'indirizzo. Ah no, è solo il nome. Bye. sentieri percorriamo tutti insieme ogni giorno alle 18. D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Venerdì 20 ottobre, discoteca Empire San Martin. San Martin, Austria. Sabato 21 ottobre, Dance Club at One, Graz, Austria. Every day I pray, every day I say, matter of fact, I really need you every day. People still gon' talk, some may be pumped, but don't worry, girl, I'm really gonna drop. When the sun is down, when the moon's gon' shine, girl, I really wanna be with ya. Every hour, every minute, every day, every year, come on, girl, please stay with me. Things go all around with you. Talk with me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot, poppin' low, she's a rich. I wanna test if it's true that she really quick. That my beat, I heard a lot about her. That she make it grow me a silly. Go down, chill it, just cry. Call me bullet, come on. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Sono Ilenia. Vorrei dedicare Stand By Me a Tony per dirgli che lo amo tanto. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, just as long as you stand, stand by me. Il cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello domenica pomeriggio 22 ottobre alla discoteca Vanilla Disco Vanitosa, Moimacco, Udine. Spiegazione finita e viva la vita. Bella Gigi, sono Dani, ascolto metal, ma quando ci sei te che mixi, per me non c'è nient'altro. Sei numero uno. Bella questa qua, possiamo leggerla forte. A coso? Eh? No, niente. Dai, dai. Mm. ascolto la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Sono Giulio da Grosseto. Vorrei salutare i miei compagni della Quarta Meccanici. Sabato sera eravamo tutti lì a Siena a sentirti. Spettacolo. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi, per favore, di alla ragazza che legge i messaggi che mi fa impazzire. E adesso dopo glielo dico. E che le dedico il brano che vuole. Baciala per me. Sì, sì, ho capito. Nicola. I am singing in another space, believing that your face. I am singing in another space. Sono Miriam. Mando un bacio grande a Giuseppe di Taranto. C'è ragione. Io scrivo da Palermo. Gigi, la tua musica mi fa stare bene. Ecco visto. La droga migliore. Chi è questo qua? Lele 75. Un bacio a mia figlia Desiree. La amo. ci sento, non ho tempo. Mi chiudo nell'armadio e ascolto la mia radio. E se lei poi urla perché sente che non sento, la chiudo nell'armadio ma esco con la mia radio. Sono DJ Roma del forum gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Muovete. Vorrei dedicare Acid a tutti gli zori della family. Grazie per la splendida serata all'essenza. Prego. Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Antoine di Alba. Antoine di Alba. Botte e Ciccio. Ciccio. Ciccio. Ciccio. Tony 78. Rosaria di Frosinone. Christian da Trivero. Il principe Ronaldo. Una salutata generale qua. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Giulio di San Martino. Volevo salutare una mia amica che si chiama Navni. Non la perdono per quello che mi ha fatto. Perché? Perché appunto. Arriva, arriva! Gigi D'Agostino! Scrivermi il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente 333 64 67 662. 333 64 67 662. Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Trecca da Tirrenia, Maria 82 di Caserta ed Enzo 80 di Alba. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Una camicia, una panchina danzante. Sì, vabbè. e scrivo da Ragusa. Volevo ascoltare, se è possibile, una canzone a tuo piacere e la volevo dedicare alla mia ragazza Gra. Sono con il trattore e ho la radio sintonizzata su di te. È giusto. Volevo dedicare lo sbaglio al mio amore Valentina. Se soffrire è uno sbaglio, che senso ha l'amore? Se amare è uno sbaglio, che senso ha la vita? Fra da Senago. Certi problemi non sono un dramma. Recoba che non gioca mai non è un dramma. Ma allora, perché ci soffro così tanto? Caro poeta, mi metti la musica più bella che hai, così che io possa godere come quando segna il chino. Alessandra. Nella vita accadono dei fatti bellissimi e se con il passare del tempo si cancelleranno dalla mente, non si cancelleranno mai dal cuore. A me uno di questi fatti è successo ed è stato proprio quello di avervi conosciuto. Voglio dedicare lo sbaglio ad Ale, Ioli e Fefe. Falele. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa come fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, sempre capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa, qual è la soglia, per poter dire, è un fintaglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Scelto questo mondo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri.